4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Buona serata amici dei motori, mi auguro che siate pronti per viaggiare insieme a noi almeno per tre quarti d'ora dedicati interamente al mondo dei motori. Due indirizzi subito: www.radio24.it. Se andate a navigare nella sezione dei programmi, il quarto o quinto programma, visto che sono in ordine alfabetico, è il nostro, 4 scritto in numeri, ruote, @radio24.it è invece l'indirizzo email. Due indirizzi che servono per raggiungere la nostra redazione, per consigli, richieste, per raggiungere l'avvocato Lievore che ci fa compagnia con il codice della strada sempre in mano e insomma tutto questo per voi, con l'augurio, con la speranza di esservi utili. Una puntata ricchissima, si parte dalle due ruote, si passa attraverso le auto e si giunge fino alla nautica. Questo ci propone questa sera Quattro Ruote Dintorni con la prova della Ducati Street Fighter con Fabio Cormio di Due Ruote. Buonasera Fabio. Buonasera Roberto e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dopo di te Fabio sarai seguito dal professor Malagodi, analista del Sole 24 Ore, con il quale parleremo di Fiat, inevitabile in questi giorni, poi Emissioni Zero insieme a Emilio Brambilla di Quattro Ruote, l'avvocato Lievore su un caso di zona traffico limitata che è costata tante multe ad un ascoltatore e chiusura in bellezza con il Frauscher 686 Lido, una barca devo dire meravigliosa in edizione limitata. L'abbiamo provata a 63 nodi di velocità, 500 cavalli, intitolata Dino Feltrinelli, un vecchio campione della motonautica sui laghi e non solo. Tutto questo da ora, iniziamo dalla Ducati Street Fighter eletta all'EICMA 2008, il salone della moto, come più bella moto dal pubblico del salone. È davvero così bella dal vivo, Fabio? Sì, sì, bella e bella, insomma, devo dire che in distanza qualche occhio malizioso coglie delle vicinanze anche con un capolavoro come la MV è tutta sì. Brutale, però insomma non credo che sia, non è di certo una scopiazzatura, è una moto davvero davvero bella e non è neanche identica alla 1098, insomma alla super sportiva Ducati, non è una semplice 1098 spogliata, le differenze ci sono, insomma le vedremo. Molto bene, intanto parliamo di una naked che però non è tanto una naked perché ha un telaio, un motore quasi da superbike, adesso sentiremo tutti i dettagli. Iniziamo intanto dalla prima scheda che ci introduce al mondo Ducati Street Fighter. Ducati Street Fighter. Prestazioni da vera superbike e peso contenuto, design affilato e prezzo da estimatore. È italiana ed è marcata Ducati, la naked più estrema mai prodotta. Nome: Ducati Street Fighter. Dimensioni: lunghezza 2,12 m, altezza sella 84 cm, peso a secco 169 kg. Motore 2 cilindri a L, 4 tempi raffreddato a liquido, cilindrata 1099 cm3. Distribuzione desmodromica con 4 valvole per cilindro, alimentazione a iniezione. Omologata a Euro 3, serbatoio da 15,5 litri. Potenza 125 cavalli, 92 kW. Trasmissione, frizione multidisco a secco, cambio a 6 marce, finale a catena. Freni a doppio disco anteriore da 330 mm, posteriore a disco singolo da 245 mm. Prezzo 14.900 euro, chiavi in mano. Allora, lasciamo perdere l'estetica e il design, seppur meravigliosi, e parliamo di come va questa Ducati, Fabio. Eh beh, la moto va bene, questo era, diciamo che nessuno aveva grossi dubbi, però è anche vero che si gioca con potenze esagerate, con una ciclistica specialistica, insomma non è, di certo non è una moto facile, te ne accorgi subito quando ci sali, sella dura, classica, classico sterzo, poco sterzo, cosa che si trovava già sulle Monster e qui è ancora più enfatizzata come peculiarità della moto, in pratica bisogna fare tre manovre per riuscire a fare un'inversione a U, però non stiamo parlando di una moto pensata per la città, ma una moto pensata per la pista. Di fatto si guida quasi come un'ipersportiva, se non fosse che il manubrio è più alto. La cosa che sorprende tanto è la stabilità, che è eccellente anche alle velocità molto alte. Quello che può rendere la vita vita un po' difficile è la gestione del gas. Si parte, si innesta la prima, c'è subito una botta di potenza, di coppia più che di potenza, poi una leggera flessione, il motore sembra quasi appunto flettere decisamente per poi smorzare la sua spinta, e invece arriva dopo i 4-5 mila giri, arriva il famoso calcio nel sedere che tende a fare impennare la motocicletta. Ecco, almeno l'esemplare che abbiamo noi in mano forse non è ancora perfettamente a punto dal punto di vista della mappatura della centralina elettronica. Certo, si può trovare una erogazione più morbida. Parlando invece di guida su strada, perché tutto questo avviene naturalmente in pista con tester di due ruote, di moto online, gente insomma esperta, per cui il ginocchio per terra è roba da ragazzi, insomma, per chi invece vuole farsi un bel giro su strada con buone ambizioni ma rispettando i limiti, è una moto che consigli o è tra virgolette sprecata, Fabio? Beh, è un po' sprecata, nel senso che proprio per questo motivo, proprio perché si parla di una moto estrema, e lo stesso project leader Giulio Malagoli, quindi colui che l'ha creata questa moto, è il primo a dire che si tratta di una moto estrema, specialistica, eccetera, e anche per questo, per tutti i materiali usati, la moto costa molto, 14.900 euro la base. Ecco, la Ducati, dicevo, tiene in gamma naturalmente il Monster nelle sue varie cilindrate, che è una moto che si presta molto di più a un utilizzo stradale ed è ancora molto più versatile. Questa è veramente una moto per cercare la prestazione in pista. Oggi esistono anche dei campionati appositi per le naked, quindi per le moto prive di carenatura. Molto bene. Senti Fabio, c'è qualcosa su Moto Online? Credo proprio di sì, vero? Sì, naturalmente noi siamo usciti tempestivamente con la prova, con anche un'ampia gallery fotografica, e nella sezione video c'è anche un video promozionale, un video factory di quelli diffusi proprio dall'azienda. Non ti nascondo che proprio in questi giorni abbiamo girato con Andrea Padovani, che è un po' il nostro tester di punta, anche un filmato a Vairano dove lui ci mostra tutto quello che si può fare in pista con questa moto, che non si deve assolutamente fare su strada, quindi traversi, lunghe impennate, in piedi sulle pedane, eccetera. Insomma, io credo che sarà molto gradito agli appassionati. Molto bene, sempre da emulare, solo per i piloti e non per noi umili ma appassionati motociclisti su strada. Grazie davvero a Fabio Cormio di Due Ruote, a presto e alla prossima prova. Grazie Roberto, a prestissimo. Chiudiamo con la pagella, allora diamo i voti a questa Ducati Street Fighter. Dotazioni e comfort. L'impostazione da sportiva radicale si fa sentire. La Street Fighter non nasce per essere comoda, ma per dare emozioni. Prestazioni motore. Il Desmo ha ampio alesaggio e corsa corta, è un motore da racing replica e si sente ad ogni apertura del gas. Tenuta di strada e guidabilità. Ottima. Pur essendo priva di appendici aerodinamiche, la Street Fighter è stabilissima anche sul veloce. Freni. Addirittura esagerati, almeno per l'uso stradale. La potenza è debordante, manca un pizzico di modulabilità. Prezzo. 14.900 euro è un prezzo decisamente alto. È allineato a quello delle 1000 cm cubici giapponesi 4 cilindri. Allora, questa era la pagella con la quale ci congediamo da questa prova Ducati Street Fighter, e adesso seguono alcuni argomenti davvero interessanti. Inizieremo con il mercato dell'auto, perché lo sapete, se ne parla tantissimo, lo diremo tra qualche secondo dopo una piccola pausa insieme a Paolo Malagodi. E poi attenzione, per chi rispetta l'ambiente, l'allegato gratuito con il mensile quattro ruote in edicola si chiama Emissioni Zero, a due grandi anime. Una è quella dell'elettrico, che sta pesantemente arrivando sul nostro mercato, e vedrete che sconvolgerà di gran lunga i giochi del mercato stesso. E poi invece GPL metano, come dire, combustibili alternativi più vicini a noi, già fattibili, già presenti, con reti di vendite che vanno decisamente aumentando sul nostro territorio. Quattro ruote e dintorni. Dunque, se leggerete il nostro sito radio24.it troverete una frase che ho voluto mettere in evidenza con tutte le voci che state riascoltando da lunedì scaricabili, che dice: mai come in questo momento il mercato dell'auto è stato sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo. Prima perché la crisi lo rosicchiava, lo corrodeva di settimana in settimana, poi perché Fiat, proprio in queste ultime due settimane, insomma, sta sfornando vere e proprie notizie importanti. Prima prima l'assalto a Chrysler, riuscito adesso ad Opel, dove per assalto non si intende nulla di negativo, ci mancherebbe altro. Anzi, avanzi l'azienda italiana, quando può e quando riesce. Ne parliamo con un vero esperto di questo argomento, il mercato dell'auto, l'analista del Sole 24 Ore, il professor Malagodi. Caro professore, bentornato. Ritrovato Roberto. Una settimana fa parlavamo insieme dei dati che come sempre lei ci fornisce, questa volta le sue previsioni sono state anzi ancora una volta azzeccate, anzi addirittura il segno meno che lei ci prospettava era un pochino più pesante di quanto detto, lei si era spinto fino a un meno 5%, addirittura ha fatto segnare un meno 7%. Assolutamente così, io davo l'indicazione, abbastanza in attesa credo da molti ascoltatori, di un mercato nell'aprile appena trascorso con un segno meno significativo. Facevo un'ipotesi di un mercato che potesse arrivare a poco più di 190.000 unità, in realtà ne sono state registrate soltanto a poco più di 188.000, che porta il mercato al meno 7,5. Cambia un tantino il valore, però non cambia la tendenza e non cambia nemmeno la ragione di questo risultato negativo, quella cioè di una certa quota di ordini che i clienti, soprattutto privati, hanno depositato presso le concessionarie, di vetture soprattutto al massimo degli incentivi, GPL e metano, e una diciamo così lista d'attesa che fa sì che in aprile ancora le case non si siano attrezzate a sufficienza per rifornire le concessionarie con questi prodotti, quindi abbiamo gli ordini ma non abbiamo avuto le consegne, il che vuol dire che il mercato resta tonico. Certo. Anche se la mia opinione, la dico adesso ma l'ho già detta e la confermo, non è che con gli ecoincentivi il mercato si sia messo a correre, il mercato si è rimesso a camminare dopo essere rimasto steso dalla pausa di gennaio-febbraio, anche perché in questa fase di domanda ci sono i privati ma mancano totalmente le aziende. Decisamente. Chi dice che in realtà questo segno meno sia dovuto anche, anzi pesantemente, in parte al calo degli ordini dovuti alle flotte aziendali? Dice il vero o dice il falso? In base ai risultati che abbiamo di aprile è assolutamente vero, perché il mercato dei privati, con un dato generale di tutto l'andamento di aprile con meno 7,5, ha un segno più, è un più 7,4, cioè i privati hanno immatricolato circa 150.000 macchine, in aprile 2008 erano 139.000, però la quota del noleggio è scesa del 40% aprile su aprile. E la quota delle società, quelle che hanno partita IVA, quelle che comprano come aziende, è discesa di oltre il 39%, ecco il risultato globale. Questo perché le aziende sono ferme, sia le grandi che le piccole, spengono la luce per risparmiare sulle spese, a maggior ragione portano avanti l'ordine delle vetture nuove, e anche le società di noleggio, che ragionano molto in termini anche di noleggio a lungo termine per la società, o anche i frequentatori delle società di noleggio, sono più uomini d'affari che turisti in genere, ecco il calo anche delle società di noleggio. Se avessimo avuto il supporto delle società di noleggio, forse la quota avrebbe fatto scattare una percentuale di afflusso, soprattutto di vetture non a GPL metano che erano disponibili in rete, però questo non c'è stato e quindi il risultato lo dobbiamo dare per acquisito. Professore, più volte da questi microfoni abbiamo detto che in momenti di crisi l'unica cosa positiva è che si compra bene. Lo abbiamo detto agli ascoltatori, agli automobilisti indecisi se comprare o meno, addirittura con gli incentivi va da sé, il consiglio è ancora più valido. Invece poche volte, se non mai, a dire la verità, abbiamo pensato che compran bene anche gli industriali, se hanno i soldi, se hanno la forza e le banche dietro che li sostengono. E così Fiat, insomma, si è fatta avanti con Chrysler, ora lo sta facendo con Opel. È di ieri la notizia che Volkswagen e Porsche si fondono, in realtà notizia già in parte preannunciata visto l'azionariato pesante di Porsche in Volkswagen. Ci fa capire qual è lo scenario mondiale? Chi riesce a comprare chi? È uno scenario in continuo movimento ed è difficile fissare dei paletti dicendo questo è lo stato, perché mentre noi parliamo, registriamo e gli ascoltatori stanno ascoltando, qualcosa si sta muovendo, anche perché alcune partite si sono giocate a carte scoperte. Diciamo subito, la partita Fiat Chrysler era molto chiara. Avevamo una Fiat che forniva tecnologia, della quale Chrysler aveva bisogno, era capace di pilotare una trattativa diretta anche col supporto del governo americano in una direzione che era già definita, salvo una serie di elementi che cammin facendo si sono chiariti: consenso dei sindacati, consenso parziale dei creditori, la bancarotta pilotata, ma non vi erano altri interlocutori dietro le quinte pronti a giocare le loro carte. Nel caso Fiat Opel è vero che Fiat sta affacciandosi a trattare la partita Opel, però lì non sappiamo esattamente le carte quali siano tutte, e abbiamo ogni tanto un sipario che si apre, fa vedere che dietro ci sono quelli della Magni, il gruppo austro-canadese pronto a rilevare una quota di Opel, c'è chi mi presenta dei gruppi arabi come fondi capaci di investire. È una partita ancora da giocare, anche se io credo che Fiat abbia delle buone possibilità su un piano diverso, però attenzione, qui non ci sono tecnologie complementari, Fiat non ha niente da insegnare a Opel e viceversa, o meglio, può insegnare qualcosa a Fiat nel campo delle piccolissime, però Opel può insegnare qualcosa a Fiat nel campo delle medie, come ha con Insignia, eccellente vettura, quindi sono due aziende molto complementari, è una partita diversa che però può dare un risultato positivo. Decisamente. Senta, che cosa succederà invece dopo domani? Le domande qua si fanno sempre più difficili, me ne rendo conto, lei è l'uomo per me del domani, ma provo a avanzare questa cosa: si esce dalla crisi fra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, qualcuno dice scordatevi il ritmo produttivi del 2004, 2005, 2006. Lei è d'accordo, oppure l'elettrico che arriverà pesantemente sul mercato, se la lobby del litio, come la chiameremo tra poco con Emilio Brambilla, avrà ragione delle vicende economico-finanziari globali, riuscirà a sconvolgere tutto questo panorama, professore? Ma io sono più per questa seconda ipotesi, che intanto si poggia su nuove forme di alimentazione, certamente l'elettrico darà anche in termini proprio letterari una certa scossa al mercato. Certo. Con una presentazione di prodotti industriali, c'è l'iniziativa di Nissan, con Renault ci sono i cinesi molto attivi, però io guardo soprattutto al fatto che in questa situazione, che con pesante crisi ha riguardato mercati maturi dagli Stati Uniti all'Europa, in parte risollevatasi in alcuni paesi, Italia, Germania e Francia con gli incentivi governativi, ci sono dei mercati invece che stanno continuando a marciare con una crescita significativa. A nessuno sfugge che il mercato cinese già quest'anno, grazie alla crisi statunitense, è il primo mercato mondiale. Lo sarebbe comunque diventato nel 2009-2010. Chiaro, chiaro. Ed è un mercato nel quale i segni più continuano ad andare al più 7-8-10%. È un mercato nel quale, tra l'altro, il gruppo GM con il marchio Buick, ad esempio, è uno dei primi venditori. È un mercato nel quale Volkswagen è molto forte, ma nel quale ad esempio Fiat nel 2008 ha venduto zero vetture, dicansi zero, e Chrysler, che non ha una joint venture con un partner cinese come tutti gli altri hanno, anche per necessità di quel regime non privatistico ma regolato, certo, dallo Stato, ha importato, o meglio esportato verso la Cina, qualcosa come 11.000 vetture vendute da distributori locali. Ecco, non è su quelle basi Fiat Chrysler con 11.000 vetture che si vede il futuro di un gruppo Fiat Chrysler in Cina. Anche questo è un pilastro, chiaro, che dovrà, chiaro, essere ben fondato, e lo vedremo probabilmente da qui a un paio d'anni, man mano che l'alleanza Fiat Chrysler si va consolidando. Quindi è un grande movimento, lo seguiremo, che darà luogo a delle profonde trasformazioni. Molto interessante. Grazie davvero alla sua competenza e precisione. Professor Malagodi, analista del Sole 24 Ore, ci fa compagnia almeno una volta al mese. Sempre gradita la sua compagnia. Grazie, a prestissimo. A presto. Allora, lasciamo da parte per ora il mercato dell'auto, ma in realtà ce ne occupiamo ugualmente, perché in questo mese in edicola Quattro Ruote si presenta con un allegato gratuito, ne parliamo volentieri dunque, si chiama Emissioni Zero, e si occupa evidentemente di quelle auto che rispettano, quelle più e quelle meno, l'ambiente. Abbiamo al telefono Emilio Brambilla dalla redazione del mensile. Caro Emilio, bentornato. Buonasera a tutti. Intanto a te è il compito di definire per i nostri ascoltatori che fossero curiosi di leggerlo l'allegato Emissioni Zero, Emilia. Sì, certo, siamo arrivati a quest'anno alla terza edizione e si tratta di un allegato gratuito di una settantina di pagine dove trattiamo un po' tutte le facce delle auto con minori emissioni di quelle tradizionali, quindi auto a gas, ibride, le nuove generazioni di benzina e diesel, l'idrogeno e soprattutto, diciamo, il tema portante di quest'anno sono le elettriche, perché sembra che dopo anni di promesse e di attese siamo veramente alla vigilia di questa nuova generazione di auto a batteria. Allora, se sei d'accordo, facciamo così, dividiamo l'intervento di questo tipo pro ambiente in due puntate. Nella prossima ci occuperemo dell'ambiente più vicino a noi, GPL e metano, e invece ci occupiamo adesso di quello del domani, cioè l'elettrico. Arriva dunque l'elettrico ufficialmente sul mercato quando, Emilio, visto che tutti ormai lo stanno sbandierando e lo stanno dicendo a gran voce? Guarda, si dovrebbero vedere diverse novità già l'anno prossimo. E poi, diciamo, nel 2012 dovrebbero arrivare anche grossi costruttori come Renault, come Nissan, l'anno prossimo dovrebbe arrivare l'elettrica di Pininfarina, quindi c'è veramente tanto fermento e tutto è merito di questa nuova generazione di batterie al litio, anche se, diciamo, uno dei capitoli all'interno di emissioni zero è proprio dedicata alla ricerca del litio, perché si ha il rischio di passare dalla lobby del petrolio a quella del litio. Questo perché? Perché il 40% delle riserve mondiali si trova in Bolivia. È tutto concentrato in una ristretta area geografica, in alcuni laghi salati nei quali si deve proprio poter ricavare questo sale di litio col cui puoi produrre le batterie. Molto interessante, anche perché da qui, figuriamoci, ne nasce proprio una questione più globale, più finanziaria che automobilistica. Quattro ruote e dintorni. Siamo al telefono con Emilio Brambilla di Quattro Ruote, che ci sta spiegando che cos'è la lobby del litio, questo materiale su cui si giocano i futuri dell'industria automobilistica, probabilmente perché arginato un pochino l'effetto e il fenomeno idrogeno, tutti gli sforzi, ora anche quelli finanziari, di ricerca e progettazione delle case automobilistiche si sono rivolti all'elettrico. Dunque, quali saranno i problemi delle auto elettriche di domani, Emilio, e non di dopodomani? L'autonomia e... E di domani i problemi sono prima di tutto il prezzo e poi, come sempre con le auto elettriche, l'autonomia, perché si sa, tutte le novità costano care, sicuramente i prezzi negli anni delle batterie scenderanno, però purtroppo adesso per fare un centinaio di chilometri si immagina di dover spendere 10.000-15.000 euro soltanto di batterie, quindi qui potrebbe nascere un nuovo modo di noleggiare l'auto elettrica o di comprare l'auto elettrica, per cui uno si compra solo la macchina e poi affitta le batterie. Però diciamo che per superare questo limite di autonomia e di prezzo, che sono molto collegate, perché tu dici, per aumentare la batteria basta mettere più l'autonomia, basterebbe mettere più batterie a bordo, però le batterie costano care, quindi più di tanta strada non ragionevolmente non riuscirò a farla con le auto elettriche. Decisamente, anche questo è importante. Ci sarebbe l'argomento ulteriore, che è quello della via di mezzo fra questi due grandi argomenti, da una parte l'elettrico puro, dall'altro GPL metano, cioè le ibride. Esatto, le ibride utilizzano un classico motore benzina o diesel, perché in futuro arriverà anche il diesel, con un piccolo numero di batterie che alimentano un motore elettrico. Quindi, diciamo, migliorano i consumi dei tradizionali motori a scoppio con spendendo relativamente poco in batterie e in parte elettrica. E queste sicuramente avranno un grosso sviluppo negli prossimi anni, proprio per ridurre le emissioni di CO2, che poi vuol dire anche ridurre i consumi e spendere meno. Molto bene, ne riparleremo nella prossima puntata. Grazie Emilio Brambilla. Grazie a voi. Allora, adesso ci occupiamo dell'avvocato Lievore, che è già in collegamento con noi. Buonasera avvocato. Buonasera a lei, ascoltatori. Il nostro amico Antonio ha scritto alla nostra mail 4ruote@radio24.it per un accadimento davvero unico. È andato a Bologna in una ZTL, zona traffico limitato, non conosceva la città, così dice, ed è entrato 3 volte in 3 varchi in pochi secondi, in pochi minuti, prendendo 3 multe che gli sono state recapitate dopo qualche mese. Chiede, ma com'è possibile, avvocato? Allora, Iniziamo dicendo subito che è l'articolo 7 del codice della strada a stabilire che i comuni provvedano a delimitare le aree pedonali e le aree a traffico limitato. Quindi queste zone devono comunque essere segnalate con segnali visibili e ben chiari da ciascuno. Nel caso però il nostro ascoltatore non si fosse accorto del cartello così come accade? Allora, la Corte Costituzionale si è espressa a questo riguardo nel 2007, sostenendo la teoria dell'unicità della condotta. Secondo questa teoria, infatti, la condotta dovrà essere considerata unitaria tutte le volte in cui, tra diverse violazioni amministrative, non sarà trascorso un notevole o un consistente intervallo di tempo. Appunto, nel caso che aveva affrontato la Corte Costituzionale, il contravventore aveva fatto due ingressi diversi in una zona a traffico limitato a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro, per cui sì, la Corte Costituzionale ha stabilito che per forza tale condotta dovesse essere considerata unica, data la distanza di così poco tempo. Ecco, è vero, tre infrazioni, però una sola colpa, insomma. Esatto, nel caso in cui invece le condotte siano poste in essere, ad esempio in giorni diversi, ovviamente si applicheranno tante sanzioni quante sono gli ingressi in una ZTL. Possiamo quindi infine consigliare al nostro ascoltatore di fare sì ricorso al giudice di pace chiedendo l'attuazione dell'articolo 8 bis della legge 689 del 1981, vale a dire proprio questo principio dell'unicità della condotta, che prevede l'applicazione a questo punto di una sola sanzione pari a quella che è la sanzione base, cioè la sanzione minima, che potrà essere aumentata fino al triplo. Chiudiamo con le sanzioni per questa contravvenzione. Allora, la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto e aree pedonali e zone a traffico limitato sono soggette a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70 a 285 euro. L'avvocato Lievore lo raggiungete attraverso la nostra email 4ruote@radio24.it. Avvocato, grazie e buona serata. Grazie e buona serata a lei. Chiusura in grande questa sera della trasmissione con la nautica, visto che ero stimolato dal sole che finalmente si è affacciato, è arrivata la primavera o estate light, chiamatela come volete, quindi è tempo di mare. L'uomo di mare che è in me non ne ha potuto fare a meno, abbiamo parlato tante volte di nautica nel nostro programma, però sempre relativamente ai motori. Allora ci siamo concessi una prova sbalorditiva, credetemi, di uno dei motori più potenti, un Volvo Penta a bordo di un Frauscher 686 Lido, una barca meravigliosa. Limited Edition, 9 esemplari soltanto, 180.000 euro di costo, intitolati a Dino Feltrinelli, un vecchio campione della nautica della prima metà del Novecento. 500 cavalli di potenza e 62 nodi sul mare. Incredibile le sensazioni che ho provato. Importatore e distributore per l'Italia è Mauro Feltrinelli, a cui abbiamo chiesto di presentare intanto il cantiere austriaco Frauscher. Un cantiere nautico austriaco che ha una grande tradizione, purtroppo poco conosciuto in Italia se non nella nicchia dei velisti, perché in realtà da diversi anni ormai Frauscher, che è un'attività, un cantiere, una ditta fondata nel 1927 per le note vicende che hanno portato i laghi austriaci ad avere il divieto di navigazione a motore per questioni ambientali, di tutela della pesca eccetera, hanno dovuto gioco forza convertirsi alle barche elettriche e barche a vela soprattutto. Con gli anni la passione per il motoscafo, che era quella originaria che ha mosso il cantiere ai primi passi, ha preso il sopravvento e ha condotto i figli, cioè la nuova generazione Frauscher, a spostarsi e costruire di nuovo dei motoscafi. Motoscafi però a trazione elettrica, con batterie, quindi stati un po' antesignani anche di quello che sta succedendo nell'automotive, con per esempio l'ibrido e le auto elettriche. In Austria sulle acque interne, in Svizzera e in Germania, quindi nei tre paesi principali di lingua tedesca, Frauscher detiene la leadership delle barche a trazione elettrica. 5 anni fa uno di questi modelli, molto interessante, vi invito quando potete di andarlo a vedere, il 750 Saint-Tropez, un runabout in stile anni 60, è stato costruito per alcuni clienti particolari dei laghi svizzeri e ha colpito la nostra fantasia. Noi Feltrinelli qua sul lago di Garda vendiamo barche, abbiamo costruito barche per anni, per decenni, e questo 750 ci ha colpito particolarmente. Molto interessante, abbiamo chiesto, peccato, avere un motore, un bel motore potente qua sopra potrebbe aprire nuovi mercati. Frauscher, che ci conosceva già da molti anni, ci ha preso in parola, ha deciso di accogliere la sfida e siamo arrivati oggi, dopo 4 o 5 anni ormai, ad avere una buona posizione, conquistato una buona posizione, un'ottima fetta di mercato nel mercato di nicchia dei motoscafi a motore potenti, performanti, nella fascia fra i 6 e i 9 metri. È così che giungiamo al 686 Lido, di cui oggi conosciamo l'edizione limitata. Presentiamo intanto la barca. Che tipo di barca è? La barca nelle linee esterne richiama molto da vicino i racer degli anni 20, che erano conosciuti qua sulle nostre quinterne, ma anche al mare, protagonisti delle grandi gare, protagonisti dei personaggi che all'epoca potevano permettersi un motoscafo. Le linee molto dritte, la prua a scalpello, le murate filanti, un po' il minimalismo e la pulizia della linea esterna. Chiaramente interpretato il tutto in una maniera molto, molto moderna. La carena deve rispondere per forza alle esigenze dell'uomo moderno, del muoversi di oggi. Quando negli anni passati si andava in barca si poteva permettere il lusso di aspettare la bella giornata, il lago calmo, il mare tranquillo per poter circolare, poterci andare a divertire. Oggi con i ritmi che ci impone il business abbiamo poco tempo a disposizione, l'uomo d'affari ha bisogno di poter usare la barca e potersi sfogare in qualunque condizione meteo, quindi le carene devono essere rispondenti a questa esigenza, quindi rapide, molto sicure, confortevoli in ogni occasione. Sentiamo il rumore e poi parleremo di prestazioni e performance. Che tipo di motore ha questa barca? Monta un motore della Volvo Penta che deriva da un blocco General Motors GM da 8100 di cilindrata, sviluppa nella versione di serie standard 425 cavalli e anche la versione con cui motorizziamo questa barca nel suo step di prima consegna. A disposizione del cliente per questi 9 esemplari, perché ricordo l'edizione speciale di Dino Feltrinelli verrà prodotta solo in 9 esemplari, a disposizione del cliente, come dicevo, c'è la possibilità di scegliere poi ulteriori 2 step di tuning, il primo principalmente diciamo estetico e di affinaggio delle prestazioni, quindi si mantiene più o meno la potenza, però vengono applicate delle eliche particolari e viene elaborato un po' il discorso degli scarichi, mentre invece il secondo step porta a un intervento più pesante alla meccanica, alla distribuzione del motore, alla conformazione e configurazione delle valvole e di nuovo all'impianto di scarico, con anche un intervento di chip tuning, cioè un intervento sulla centralina. Il tutto porta la potenza del motore a quasi 500 cavalli, che non è estremo, il motore potrebbe arrivare a molto di più, però non è nostro interesse arrivare a una barca da corsa. Il tutto Frauscher lo vuole abbinare al concetto di sicurezza, ci fa capire come si può abbinare il concetto di sicurezza a una barca che in pochi secondi plana sui 20 nodi e 2000-2500 giri, già abbassa la prua e va via veloce fino a oltre 60 nodi. Sì, sembra un controsenso, eppure l'edizione speciale è nata proprio per dimostrare quanto l'edizione poi normale, in realtà le barche di serie, siano affidabili e sicure. Con questa barca siamo riusciti a spingere da 0 a 50 nodi in 6 secondi, quindi accelerazioni da auto sportiva e velocità di punta che raggiungono i 120 km orari in pratica, quindi se facciamo il paragone con il rapporto 0,70 per le automobili equivale a correre a 260 all'ora su strada, però dà in ogni momento la padronanza del mezzo, entra in virata con una sicurezza precisa, in tanti appassionati l'hanno paragonata alla barca a vela per la precisione che ha nella virata senza scarroccio, senza imbarcate particolari. Tanto che quando la consegnate è previsto un giorno in cui insegnate a utilizzare questa barca, affinate proprio la modalità di approccio. Beh, qui mi viene da ridere perché non abbiamo inventato proprio niente, tante case automobilistiche fanno questo già da tanto tempo, sui modelli di punta e più sportivi prevedono un training di pilotaggio e abbiamo ritenuto in questo caso utile, anche se non indispensabile, offrire al cliente la possibilità di capire un po' le sfumature e soprattutto imparare a domare il temperamento caparbio e intemperante di questa barca. Chiudiamo anche capendo il range di prezzi di questa barca. 686, partiamo da quella limited edition provata oggi, arriviamo poi a quella invece detta normale, che poi normale non è. La limited edition raggiunge al suo top 180.000 euro chiavi in mano, barca in acqua insomma. La 686 Lido però è presente, lo ricordo, sempre nella versione normale per tutti, con prezzi che si aggirano, cioè vanno a seconda della motorizzazione e dell'allestimento da 85 fino a 110.000 euro. Ricordo che ogni barca Frauscher, e questo per ritornare alla sensibilità ambientalista di Frauscher, già da tempo è disponibile anche con motorizzazione ibrida, un motore Steyr con abbinato un sistema ibrido, quindi di propulsione elettrica, che serve anche a essere generatore di corrente per ricaricare le batterie. In questo caso la Lido 686 in versione ibrida viene a costare circa 130.000 euro, quindi 20.000 in più della versione top a benzina. Grazie a Mauro Feltrinelli, importatore e distributore per l'Italia in esclusiva di Frauscher. Tra l'altro, parlando con Mauro, veniva fuori un concetto nuovo, diverso se volete, cioè che in mare si possono sfogare le voglie di velocità abbinata alla sicurezza a velocità molto inferiori rispetto a quelle dell'auto. Per avere dei bei brividi bisogna andare a 200-250 in pista con un pilota, in auto invece in mare a 60 nodi vi assicuro i brividi sono garantiti e probabilmente si rischia molto meno visti gli spazi. Tra l'altro parleremo anche di assicurazioni perché Assiteca ha in collaborazione con Royal Sun Alliance di Londra ha tirato fuori una polizza che debutta proprio quest'anno, All Risk, dedicata alla nautica da diporto con barche del valore da 50-100.000 euro in su e coprono molti rischi se non tutti. Un'altra buona notizia. Qui termina il nostro programma di motori, grazie a Pietro in regia, a voi per l'ascolto, Roberto Rasia vi ha parlato e vi augura soprattutto una buona guida durante questo weekend.